E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come prevedibile e in qualche modo anticipato dai nostri ospiti nei giorni scorsi, da quando giovedì scorso la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che con ogni probabilità alzerà il costo del denaro, i tassi di interesse, i mercati stanno reagendo e non bene. Mi riferisco soprattutto a quello che sta capitando sul debito di Grecia, Irlanda e Portogallo. Tutti gli indicatori che misurano il rischio nel finanziare questo debito sono in aumento, e lì sono i soliti, cioè la differenza tra quanto è obbligata la Grecia o l'Irlanda o il Portogallo a offrire come rendimento per trovare finanziatori al suo debito, questa rispetto a quanto è obbligata a fare la Germania. Questa differenza è sensibilmente aumentata oggi, a nuovi record in alcuni casi. C'è poi un forte timore su alcune banche greche e ancora anche i CDS, ossia il premio assicurativo che si paga per assicurarsi contro il rischio di un fallimento di questi paesi, questi CDS sono tornati a crescere. La situazione viene a anche un risvolto sulle borse, ma non così intenso, ce l'ha soprattutto, ripeto, sulle obbligazioni. Adesso esamineremo anche come sono andate le aste, l'obbligazione è il modo in cui uno Stato finanzia il suo debito, emette un BOT, un BTP, pagando un interesse su questo. La domanda è stata in calo e invece è aumentato in molti casi il rendimento che hanno dovuto offrire questi stati. Dicevo, sulle borse questo ha un impatto ma non così forte. Francoforte perde lo 0,60, Parigi anch'essa in calo dello 0,60, Londra perde lo 0,64%, l'Italia invece è positiva di uno 0,20%. Perché? Perché va particolarmente bene oggi Fondiaria SAI. Questo è un altro tema, sapete, ne abbiamo parlato molte volte dell'ingresso, del desiderio da parte del colosso assicurativo francese Groupama di entrare dentro il gruppo controllato dalla famiglia di Gresti, ma della decisione della Consob della settimana scorsa di obbligare Groupama a lanciare un'OPA, un'offerta pubblica su tutto il resto del capitale. Questo ha congelato le attese di un ingresso dei francesi. Oggi però è ripartito il titolo, più 5,80%, già ieri devo dire in rialzo. E soprattutto va bene una controllata del gruppo di Gresti, e mi riferisco a Milano Assicurazioni, più 8,61%, anche sulle risparmi non convertibili, Fondiaria SAI appunto più 5,80% in questo momento. Tra i titoli segnaliamo, oltre a Fondiaria SAI, l'automatica molto forte, più 5,32%, Enel Green Power che tra poco diffonderà i conti, più 3%, dovremmo avere anche il responsabile finanziario dell'Enel in collegamento dopo la chiusura di borsa, Finmeccanica più 3% e di nuovo forte Pirelli dopo i conti, più 1,80%, ma anche Impregilo più 2,45%. Segnalo che va bene Luxottica più 1,40% e Tod's più 1,30%. Tra l'altro si riunisce, stiamo attendendo un comunicato anche di Groupama per quello che riguarda la vicenda Fondiaria SAI, perché c'è il consiglio di amministrazione di Groupama, quando uscirà in agenzia ve lo leggeremo in diretta. Il mercato è in attesa, è chiaro che l'oggetto è capire cosa fare dopo la decisione della Consob che ha obbligato Groupama a lanciare un'offerta su tutto il gruppo. E su Finmeccanica invece va detto che insomma, oggi il CDA decide sulla cessione di una parte di Ansaldo Energia. 349-238-6666 per i vostri sms. Oltre al tema del nuovo attacco ai debiti sovrani dei paesi periferici dell'area euro, ci occuperemo della vicenda appunto Fondiaria SAI Groupama, di Enel Green Power e anche del testo che finalmente è uscito sulle quote rosa o quote di genere, come si chiamano in gergo. Ripeto, non è retorica, va a cambiare quello che sarà l'organico dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e anche delle municipalizzate e quindi delle società che sono partecipate dagli enti locali. Adesso però le notizie in breve. Ah, dimenticavo la benzina e il petrolio che tengono sempre banco, avremo anche un piccolo approfondimento in apertura. Comunque partiamo proprio dal petrolio che è salito a 114,5 a Londra, quindi il Brent, e a 105,7 a New York, quindi il WTI, in rialzo dell'1% a Londra, dello 0,7% a New York, e questo anche dopo che si è saputo circa un'ora e mezza fa che le forze fedeli a Gheddafi hanno colpito dei serbatoi di stoccaggio di greggio nel terminale petrolifero di Es-Sider vicino a Ras Lanuf. Lo dicono i ribelli, diverse TV tra cui Al Jazeera. Sono state trasmesse le immagini degli impianti in fiamme e di enormi colonne di fumo nero. Ancora l'OPEC però su questo dice, l'organizzazione che riunisce i principali paesi produttori di petrolio al mondo dice, non ci sono elementi per parlare di emergenza, non vi sarà alcun vertice d'emergenza perché i rifornimenti sono adeguati. Questo per quello che riguarda l'approvvigionamento di petrolio. I prezzi della benzina, e qui ci trasferiamo invece sul prodotto diciamo finito, sono invece ancora in rialzo. Praticamente i dati sono della Staffetta Quotidiana, che è il principale organismo del settore. E allora Kuwait ha fatto un centesimo sia su gasolio che su benzina. Total Erg 0,7 centesimi sulla benzina. Ancora una volta al sud si segnalano i prezzi più alti. In Campania è 1,616 euro, in Sicilia il gasolio è a 1,497 euro. Su questo è intervenuto anche il Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani dicendo che bisogna verificare se c'è questa velocità nei prezzi ad adeguarsi quando devono crescere, questa lentezza a scendere invece quando il petrolio è in calo. Il petrolio viene pagato in dollari e incide nella differenza fra qualche anno fa e oggi il diverso cambio fra euro e dollaro. Il prezzo della benzina ha sostanzialmente tre componenti. Un costo della materia prima, un costo fiscale e quello che viene chiamato abitualmente il margine lordo. Il margine lordo è composto da tutti i costi che ci sono fra la materia prima e il consumatore, ovvero il trasporto, il pagamento del gestore, la distribuzione, gli ammortamenti, il guadagno diciamo legittimo anche delle aziende che distribuiscono il carburante. Parlo ovviamente dei distributori. Sul prezzo internazionale, che è il prezzo di riferimento, che è il cosiddetto Platts, è un prezzo che vale per tutti ed è uguale per tutti, cioè per tutti i paesi del mondo. Poi c'è da verificare, ed è una verifica che faremo nei prossimi giorni, se l'adeguamento italiano, come spesso si dice, è fatto velocissimamente in salita e non è mai fatto velocissimamente in discesa. La commissione dinamiche prezzi che io ho appositamente costituito nelle settimane scorse, dove è presente ovviamente il Ministero, sono ovviamente presenti i petrolieri, i distributori, l'associazione dei consumatori, cioè tutti coloro che possono avere un interesse negativo o positivo rispetto al prezzo del petrolio che si viene a formare al consumatore, e in quella sede verificheremo che cosa è possibile fare. Poi c'è una specificità tutta italiana del sistema distributivo. Purtroppo noi siamo l'unico paese in Europa dove il self è largamente minoritario rispetto al servito, ovvero nei nostri distributori, che sono circa 23-24 mila, c'è circa un 20% ha il self. Ovviamente il self vuol dire non avere personale, vuol dire certo, quindi non avere un'aggiunta di prezzo di costo. Nel resto dei paesi europei c'è un 80-90% di self. Ecco dove si può eventualmente intervenire su quei 16-17 centesimi che formano il margine lordo. Tutto vero quanto dichiarato dal ministro Romani. Abbiamo avuto la settimana scorsa il rappresentante dei distributori di benzina. C'è un dato in Italia in cui i self-service si usano molto meno, un terzo rispetto alla Francia, la metà rispetto alla Germania, e quindi questo ha dei costi di gestione più alti, oltre al fatto che i distributori di benzina da noi spesso non vendono anche altre cose, non fanno merchandising, quindi ottengono tutti i loro introiti dalla vendita di benzina. Però una cosa la suggeriamo anche al ministro e al governo, visto che nel precedente governo Berlusconi, nostro ospite, l'allora sottosegretario Valducci, vice ministro allo sviluppo economico, promise di lavorare sull'andamento anticiclico dell'IVA sulla benzina. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che siccome l'IVA è un'imposta che si applica sulla benzina e lo Stato guadagna di più quando aumenta l'imponibile, diciamo, che è appunto il prezzo del petrolio, da più parti si è detto lo Stato potrebbe rinunciare all'IVA in più, cioè ottenere l'IVA normale, l'IVA attesa, ma non il guadagno ulteriore derivante dall'aumento del petrolio, abbassando il livello dell'IVA quando il prezzo del petrolio sale molto e viceversa riportandolo a livelli normali quando il prezzo del petrolio cala. In questo modo avrebbe un effetto che si chiama in gergo anticiclico. Anche questa potrebbe essere un'azione intrapresa dal governo. Nel frattempo, sempre sul caro carburante, è intervenuto anche da Coldiretti, il responsabile economico da Coldiretti, Lorenzo Bazzana, oggi ospite di Deborah Rosciani a Savadanaio, ha ipotizzato che a questo punto, se continua un aumento dei prezzi del carburante, vi saranno ripercussioni anche sui prezzi dei prodotti alimentari, perché insomma incide molto il trasporto in alcuni casi. Noi in questo momento stiamo analizzando quella che è la situazione di andamento dei prezzi e riscontriamo una normale variabilità per il periodo, cioè siamo in un periodo comunque invernale. Abbiamo delle temperature rigide un po' lungo tutto lo stivale, quindi soprattutto sugli ortaggi ci possono essere delle oscillazioni nella disponibilità di prodotto che sono anche determinate appunto da questo andamento climatico. Sappiamo benissimo che quello che è il prezzo finale dei prodotti ortofrutticoli dipende in buona parte da quello che è il costo di trasporto, quindi dalla logistica. Circa un terzo di questo prezzo finale è influenzato dai costi di trasporto, dai costi della logistica, e quindi potrebbe esserci un rincaro determinato comunque da quello che è l'aumento dei trasporti, anche se non dobbiamo negare il fatto che ci possono essere delle strategie alternative da parte ad esempio di chi distribuisce il prodotto, magari scegliendo un approvvigionamento più vicino ai luoghi di distribuzione in modo tale da evitare appunto questi rincari. E poi qualcosa lo possono fare anche i consumatori, scegliere, comparare i prezzi, ed è il momento anche in cui si torna a parlare delle cosiddette pompe bianche, nel senso che sono i distributori di società indipendenti non collegati alle grandi compagnie petrolifere. Ce ne sono circa 2.000 in tutto il territorio, su 22.000 distributori, quindi uno su 10. In Veneto c'è una presenza particolarmente forte. La nostra Valeria De Rosa ha intervistato il referente di H6, Thomas Colla, che ha spiegato come è nato il progetto e come fanno a offrire un prezzo più basso alla clientela. H6 è cominciata nel 98 tramite un amico di mio padre che ci ha introdotto nel mondo petrolifero con costruzioni di impianti non a gestione diretta ma sempre gestiti da figure imprenditoriali che noi chiamiamo gestori. Signor Colla, quanto rende questa attività? Il giusto, rende abbastanza, insomma, diciamo che va bene. E in che tipo di zone sono i vostri distributori? No, abbiamo dei distributori che si trovano prettamente in zona turistica, quindi gente di passaggio, gente che sta andando in località balneari o località montane, allora si ferma per caso perché ha bisogno. Abbiamo invece impianti situati appena fuori del centro abitato o addirittura in centro abitato, dove lì sì abbiamo clienti ripetitivi che hanno scelto la nostra politica. Noi non facciamo il fai da te, non esiste da noi, secondo noi l'Italia non è ancora pronta ad affrontare il fai da te come lo sta affrontando tipo la Germania, da noi esiste solo il servito. Perché da voi i carburanti costano meno? Noi abbiamo una gestione degli impianti, quindi una gestione dei costi, anche solo costi di costruzioni molto differenti e molto più snelli rispetto alle compagnie primarie. Abbiamo un rapporto molto diretto, non siamo una catena grandissima, attualmente abbiamo 23 impianti, il nostro obiettivo è di arrivare a 100 nel giro di pochi anni, però insomma ci stiamo lavorando. Ma abbiamo un rapporto molto diretto anche con i gestori, che secondo noi è la parte fondamentale per la riuscita del progetto H6. Tenga conto che mentre le bandiere primarie hanno assistenti di rete zonali, quindi che ne so, sulla provincia, che seguono tot impianti, poi quelli devono rendere conto agli assistenti regionali, poi i regionali e i nazionali. Da noi è molto diretto, è un rapporto diverso sia, e questo naturalmente va a diminuire i costi, e poi anche i volumi che riusciamo ad acquistare, insomma, sono diversi rispetto, che ne so, acquistiamo milioni di litri magari invece di impianti unici che riescono ad acquistare solo, che ne so, il fabbisogno di un anno, che è poco, insomma, non è tantissimo. Abbiamo volumi più ordiniamo e più abbiamo il prezzo agevolato, insomma. Avete ragione nel dire che sono 2.000 su 22.000, quindi non è da quello che si può ottenere un effetto positivo, però anche cercare il distributore che vende la benzina meno o il gasolio meno non è male. Fanno notare alcuni ascoltatori che in Slovenia il diesel costa 1,237 euro, sebbene lo Stato compri il petrolio a Marghera e Trieste. Lo so, c'è un differenziale da sempre tra il costo della benzina in Italia e il costo della benzina in altri paesi. Andiamo avanti, ancora due notizie in breve, poi passiamo al primo tema di apertura. Calano i mutui nei primi tre mesi del 2010, nel terzo trimestre del 2010, scusatemi. Una forte battuta d'arresto, dice l'Istat, dopo la corsa da fine 2009. Il numero totale dei mutui accesi è calato del 2% e anche il numero di compravendite di negozi e uffici è letteralmente crollato, meno 11% nel terzo trimestre del 2010, è il livello più basso, il calo più forte, diciamo, dal 1997. E poi il dato dell'ARAN sulle retribuzioni. Nel 2010 le retribuzioni contrattuali dei dipendenti pubblici sono cresciute dell'1,3% rispetto al 2009, e meglio ha fatto il settore privato, più 2,4%. Le quote rosa, ne parleremo alle 18.15, l'ok del governo, si andrà a regime dal 2015, almeno il 30% di presenza femminile nei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa e delle municipalizzate. Il governo ha ritirato il parere negativo all'emendamento Germontani e questo ha consentito di approvare il DDL sulle quote rosa, che adesso andrà in aula il 15 marzo per il voto finale. Lella Golfo, nostra ospite a inizio settimana, presidente della Fondazione Bellisario e prima firmataria della legge, perché è anche deputato del PDL, parla di una grande vittoria per le donne e per il paese. Infine una classifica che, insomma, non ci fa molto piacere. Comunque, il World Economic Forum, quello di Davos, ha stilato la classifica dei 190 leader, giovani leader a livello mondiale. Sono quattro solo gli italiani, i giovani. Si chiamano Francesca Colombo, che sovrintende il Maggio Musicale Fiorentino, Lili La Penna, fondatrice e amministratore delegato di MyBNK, Pasquale Salzano, responsabile per i rapporti istituzionali dell'ENI, e Diana Verde Nieto, fondatrice di Clownfish. E adesso il primo tema, lo dicevamo, lo raccontavamo da quando la Banca Centrale Europea ha fatto capire che avrebbe alzato i tassi. Questo è stato subito colto dai mercati come un'opportunità, per modo di dire, di tornare a speculare, attaccare in qualche modo i debiti sovrani dei paesi limitrofi, come si chiamano in gergo, quindi non Germania e Francia, ma Portogallo, Grecia, Irlanda, Spagna e un po' anche Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. The Governing Council decided to leave the key ECB interest rates unchanged Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. Considerando le informazioni disponibili dall'ultimo incontro del 3 febbraio, osserviamo segnali di un aumento delle pressioni inflazionistiche dovuto principalmente a prezzi delle materie prime più elevati. I dati recenti confermano che i rischi sul fronte dei prezzi sono in salita. Sta continuando il momento positivo dell'attività economica nell'area euro, anche se permane elevato il livello di incertezza. È necessario che sia mantenuta la guardia alta per contenere i rischi alla stabilità dei prezzi. E per evitare che questi rischi si materializzino, il Consiglio direttivo è pronto a intervenire in modo deciso e tempestivo. Voglio sottolineare che la decisione di oggi sui tassi è stata unanime. Siamo estremamente vigili e al prossimo Consiglio di aprile un aumento dei tassi di interesse è possibile. We are in a posture of strong vigilance. An increase of interest rates in the next meeting is possible. Era giovedì scorso, conferenza stampa, Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, ha fatto capire che a aprile i tassi torneranno a crescere per la prima volta da quando è scoppiata la crisi. E poi un insieme di dichiarazioni ieri, Axel Weber, numero uno della Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha detto quasi un punto in un anno, 75 punti base. L'effetto, come temevamo, è stato subito quello di andare a attaccare i debiti di Portogallo, Irlanda, Spagna e anche Italia. Ci racconta tutto Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, un attimo che il microfono, adesso lo verifichiamo, eccoci qua. Vittorio, oggi il dato è molto chiaro, il rendimento dei BTP decennali portoghesi è salito a un record, al 7,7%, più uno Stato deve offrire, come un privato, no? Deve offrire per trovare un finanziatore al suo debito, peggio è messo questo Stato. È come quando in banca, se chiedete dei soldi, vi dovessero praticare un tasso molto alto perché non siete così affidabili. 7,70%. Anche i titoli italiani purtroppo sono saliti come rendimento al 5%, la prima volta dal novembre del 2008, sopra il 5%. Lo spread, la differenza tra quanto rende il bot italiano e quello tedesco, è salito a 172 punti, col portoghese siamo a 440. Portogallo ha collocato 1 miliardo di obbligazioni, ha dovuto offrire di più e ha avuto una domanda più bassa. E poi c'è la Grecia con le banche. Vittorio. È esattamente così, cioè il quadro è completamente cambiato. Nel momento in cui la BCE ha in qualche modo accolto le esigenze da parte delle economie più forti di Eurolandia, quindi della Germania, che ha un problema di contenimento dell'inflazione, che ricordiamo che è il primario obiettivo della banca centrale, cioè la stabilità dei prezzi, immediatamente accontentati quindi i timori tedeschi di una esplosione della inflazione importata, soprattutto perché naturalmente è il petrolio e non dimentichiamoci i prezzi delle materie alimentari che stanno crescendo enormemente sulla spinta di domande di Cina e India, che sono i nuovi mercati, ma anche da forti elementi di speculazione. Immediatamente la situazione per i paesi cosiddetti periferici è improvvisamente si è aggravata. Perché? Perché i tassi naturalmente si prevedono in rialzo e perché questo renderà naturalmente l'euro più forte e quindi anche l'export di questi paesi sarà più complicato. E quindi paesi ad esempio come la Grecia, che è quella che in questo momento ha 110 miliardi di aiuti e quindi fino al 2013 ce la può fare perché non deve andare sul mercato, e sta cambiando pelle, sta riducendo, anzi l'ha già fatto, ha ridotto il suo deficit commerciale e è in mezzo al guado e in questo momento naturalmente deve tornare sul mercato e quando tornerà sul mercato avrà dei rendimenti maggiori che gli creerà più problemi di quanti possa sopportare. Allora, sulla Grecia però si è collocato anche un altro giudizio ed è quello dell'agenzia di rating Moody's, che ha tagliato il voto, questo vuol dire rating, alle 6 principali banche della Grecia, portandolo da BA1 a BA3, cioè due scalini, e addirittura da BA2 a B1 altre banche. Questo diciamo, può avere un impatto e una ripercussione immediata, cioè senza attendere il momento in cui la Grecia dovrà tornare a rifinanziarsi sul mercato. La Grecia adesso ha avuto 130 miliardi di aiuti e se li sta giocando, ma c'è un rischio sulle banche greche. Sì, esattamente. Quando tu hai una previsione di crescita negativa, come ormai sono da 3 anni che la Grecia appunto ha fatto un meno 9% complessivo, quindi ha un forte decremento dei consumi, naturalmente tu hai sicuramente un aumento delle passività e dei possibili default di imprese o di appunto crediti inesigibili. Ecco allora che le banche, le cosiddette sofferenze bancarie, ne risentiranno in automatico. In più c'è un altro elemento: le banche hanno al loro interno, nei loro bilanci, in pancia, come si dice, il debito proprio del debito pubblico greco. Allora i nuovi stress test che stanno per essere fatti prevedono, in via del tutto ipotetica naturalmente, fra le tante cose, perdite azionarie, perdite, decrescita del PIL di Eurolandia, eccetera, c'è anche un'ipotesi che i titoli di Stato portoghesi vengano ridotti, in gergo subiscono un haircut del 20%. Cosa succede allora in questo caso? Che le banche che hanno in pancia i loro bond, i bond ellenici, avranno una forte perdita. Ecco perché tutti questi elementi sommati fanno sì che la questione... Chiaramente a catena. Un'ultima domanda. Oggi abbiamo visto tensioni soprattutto su Portogallo, Grecia, anche un po' l'Italia, ma meno sulla Spagna e sull'Irlanda. L'Irlanda ieri però in realtà ha avuto un aumento degli spread, della differenza tra quanto rende l'obbligazione irlandese e quella tedesca, e anche dei CDS. La Spagna mi interessa perché si è sempre detto attaccare la Grecia è stato facile anche perché la Grecia aveva truccato i conti. Attaccare l'Irlanda è stato possibile perché l'Irlanda è piccola, aveva delle banche molto esposte e un mercato immobiliare completamente in bolla, con grossi investimenti di banche inglesi, tedesche e anche un po' francesi. Il Portogallo, vabbè, il vero punto sarà se viene attaccata la Spagna, perché a quel punto diciamo, la Spagna è la trincea prima del fronte italiano. Ecco, mi sembra che il big fish o i big fishes, i grossi pesci, ancora non siano sotto pressione. E speriamo che non lo siano mai. Sì, esattamente. Cioè il mercato in qualche modo in questo momento teme per il Portogallo. Molti ormai ritengono inevitabile che il Portogallo chieda aiuto. E chieda aiuto magari il venerdì, quando ci sarà questo vertice straordinario sulla Libia, ma subito dopo sull'Eurogruppo, che lì dovranno decidere che cosa decidere il 24 e 25 marzo. Allora, che cosa succede per la Spagna? I grossi timori sono sulle cosiddette casse di risparmio locali. Questo è il buco nero spagnolo, che ancora oggi non si è ancora ben capito di quale entità sia. Quindi un sistema... abbiamo sempre detto grande attenzione alle grandi banche, too big to fail, troppo grandi per fallire. Ecco, in questo caso il caso spagnolo è un caso completamente diverso. Sono piccole banche molto vicine al potere politico e sono tutte in grave crisi. Questo è il vero problema della Spagna. E sono anche small enough to fail, sono anche piccole abbastanza per poter essere fatte fallire, una prese singolarmente, poi messe assieme mica tanto. Grazie Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Poi parleremo anche di che cosa compone il prezzo della benzina. Molti di voi ci stanno scrivendo dopo le dichiarazioni del ministro Romani. Mi sono permesso di ricordare al governo che è vero che in Italia esiste un sistema di distribuzione del carburante troppo parcellizzato, pochi self-service, poche altre attività commerciali. È anche vero che il governo ha uno strumento enorme se vuole calmierare i prezzi, e cioè ridurre l'IVA in maniera anticiclica e anche le accise quando il prezzo del petrolio, su cui l'IVA poi viene calcolata, è molto alto. Guadagnerebbe lo stesso, diciamo, ma facendo pagare a noi un po' di meno. In questo modo invece lo Stato anche incassa di più. Io vi ricordo che l'IVA e le accise pesano tra il 50 e il 60%, fino a punta del 70% sul prezzo complessivo. Comunque adesso la borsa. Allora, oggi la borsa italiana si distingue, devo dire, anche oggi per essere una delle poche positive, più 0,40%. Parigi ha perso 0,5 punto percentuale come Francoforte, Londra ha perso lo 0,60, l'America è invariata. Euro su dollaro a quota 1,39, quindi stabile. I casi di borsa si chiamano fondiere assai, di cui parleremo tra un attimo dopo il D18, l'automatica più 6,12%, Finmeccanica più 3,75% e Enel Green Power più 2,97%. E ancora in pregiro più 2,6%. Di Enel Green Power stiamo attendendo di avere il responsabile finanziario del gruppo Enel, perché i conti stanno uscendo in questi minuti. Pirelli più 2,13, Parmalat dicevo più 1,80, Luxottica più 1,70, Diasorin più 1,60%, Mediaset più 1,5 come Azimut, Tods e A2A, ma anche UbiBanca. Fronte opposto, ST Microelectronics meno 1,7, Tenaris meno 1,3 come Eni meno 1%, Atlantia meno 0,90%. E allora Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Lasciando stare per un secondo Fondiere Assai, l'Ottomatica. Sì. Beh, l'Ottomatica si muove ormai da 5-6 sedute con rialzi significativi. Oggi non ci sono motivi specifici nei report di analisti che spingono il titolo, ma l'attenzione sul settore dei giochi è rilevante. Abbiamo visto cosa è successo a SNAI nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, e si appresta a lanciare un'op per conquista della società dei giochi. L'Ottomatica non è oggetto di queste mire, ma è molto ben comprata, sta sfiorando ormai i 12 euro per azione. Questo per quello che riguarda l'Ottomatica. Bene anche Finmeccanica. Qui insomma il gruppo ha annunciato anche contratti nei giorni scorsi, ma oggi c'è la decisione su Ansaldo Energia. Esattamente, era molto attesa, del resto le trattative proseguono da oltre un anno e siamo arrivati al dunque, cioè oggi dovrebbe il CDA di Finmeccanica, CDA straordinario, dovrebbe deliberare la cessione del 45% di Ansaldo Energia a un fondo americano, il fondo First Reserve Corporation, che rileverà quindi una quota di importante ma di minoranza sulla base di una valutazione del saldo energia di 1,2 miliardi, e questo dà molto fiato all'indebitamento di Finmeccanica, perché gli porterà una riduzione di indebitamento di circa 300-350 milioni, e il mercato ha premiato questa prospettiva. Bene anche Pirelli, sempre sui conti, più 2,13%. Ma l'abbiamo già commentata, Luxottica e il lusso in generale si muove bene, Luxottica e anche Tod's. Devo dire che Edison e A2A invece guadagnano di più durante la giornata. Come hanno chiuso poi? Allora, per quanto riguarda A2A c'è stata una chiusura più 1,5%, sì. mentre Edison ha guadagnato l'1,57%. Domani c'è il consiglio di amministrazione. Esatto, domani c'è questo consiglio di amministrazione, consiglio congiunto, consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza di A2A. Sembra che i consigli riguardino un'informativa sul riassetto di Edison, ma ormai siamo nella fase calda, e quindi il mercato appunto scommette su novità soprattutto in casa Edison, e novità che saranno anche in casa di A2A, perché insieme a EDF è l'azionista diciamo di riferimento di Foro Bonaparte, e che probabilmente avrà dei benefici dal riassetto con Edison. Novità intanto sul consiglio di amministrazione di Groupama, quindi veniamo al gruppo Fondiere Assai. Non ci sono ancora novità, è iniziato nel pomeriggio, è il titolo che è la notizia che sicuramente ha spinto oggi tutti i titoli della Galassia di Gresti, ne parleremo dopo, ma è chiaro che i francesi sono lì che stanno esaminando le motivazioni della Consob che ha imposto l'OPA su Premafin e ha cascato su Fiançai nel caso di un ingresso nell'azione reato di Premafin, e quindi il mercato sta scommettendo. Poi ne parliamo, perché c'è anche Milano Assicurazioni che oggi ha fatto quasi l'8%. Esatto. Però intanto saluto, per averci raggiunto in collegamento, resta con noi Andrea, il presidente di Enel Green Power, Luigi Ferraris, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ci racconti subito i risultati. Abbiamo visto ricavi in crescita 2 miliardi 270 milioni di euro, più 20%. L'utile? L'utile si è attestato a 450 milioni di euro, risultato netto del gruppo, in crescita dell'8% rispetto all'anno scorso. È un utile netto interamente derivante dalla gestione caratteristica e quindi oggetto di dividendo. La dividend policy che abbiamo annunciato al momento della quotazione sul mercato prevedeva almeno il 30% di payout applicabile a questo risultato, e quindi i nostri azionisti riceveranno 2,72 centesimi di euro. Dottor Ferraris, le prospettive per il 2011? Per il 2011 questi risultati evidentemente sono una buona base di partenza per guardare all'anno in corso con ottimismo. Si sta ovviamente realizzando un piano di investimenti che ci consentirà di aumentare i volumi produttivi, e questo direi soprattutto nei mercati di riferimento che sono, continuano a essere l'Italia, la Spagna, ma anche il Latin America, dove ci sono sicuramente dei siti e delle opportunità di investimento molto interessanti che sono già in esecuzione. Ancora, per quello che riguarda invece il titolo, oggi ha toccato i 2,97 euro, per cui siete contenti, immagino, del valore che ha raggiunto il titolo in borsa, però una cosa mi chiedo, sì, scusatemi che mi stavo distraendo, ha toccato, no, mi scusi, non 2,97 euro, ho perso, eccolo qua, 1,802 euro, 2,97 euro, l'incremento percentuale, 1,802 euro, che è uno dei livelli più alti dal punto di vista storico del titolo, sbaglio? Beh sì, diciamo che nella giovane storia, nella breve storia di Enel Green Power negli ultimi 4 mesi è il livello più alto toccato. Ecco, su questo il mercato non sembra temere per voi un effetto dal decreto sugli incentivi alle fonti rinnovabili. Insomma, Enel Green Power si chiama così anche perché utilizza, diciamo, energia alternativa, potremmo chiamarla quindi acqua, sole, vento e geotermia. Voi avete realizzato un impianto a metà dicembre in Romania, impianto eolico, vi abbiamo contattato quando faceste quel grosso investimento a fine gennaio in Turchia, però sull'Italia voi non temete un impatto da questa incertezza sugli incentivi alle rinnovabili, perché mancano 20 giorni forse, ha detto il ministro Galano oggi, entro aprile, ha detto il ministro Prestigiacomo, non si capisce quale sarà il tetto e come caleranno questi incentivi, prego. Ma noi siamo, evidentemente, seguiamo con grande attenzione l'evolversi della normativa, però devo ricordare a chi ci ascolta che Enel Green Power, diciamo, ha un portafoglio di impianti poco dipendente dai sussidi e dagli incentivi. I ricavi totali nostri a livello di gruppo sono per il 20% soltanto dipendenti dai sussidi e dagli incentivi, e se guardiamo all'Italia siamo ancora al di sotto, siamo intorno al 16%, quindi è evidente che va a toccare una parte, direi abbastanza, non voglio dire marginale, rilevante, ma non determinante dei nostri risultati. Questo perché? Perché abbiamo un portafoglio di impianti fatto di idroelettrico, geotermia e anche eolico e solare fotovoltaico. Mi scusi, Presidente Ferraris, però il 16% di 2 miliardi 200 milioni di ricavi non è proprio pochissimo, a spanne sono circa 350 milioni, no? Beh, lei lo sta applicando 2 miliardi e 2 che è tutto il gruppo che fa. Dobbiamo vedere i ricavi in Italia che sono evidentemente meno, se andiamo a guardare poi la componente idroelettrica e geotermica che sono il nostro risultato, incidono per la maggior parte, gli importi il gioco non sono rilevanti, diciamo, tali da stravolgere il profilo di attività di Enel Green Power. Ecco, l'ultima domanda, però, lei, visto che fa il presidente del primo gruppo italiano nelle fonti, diciamo, energetiche alternative, al di là dell'impatto sul bilancio che ho capito, voi dite insomma non è così, lei che giudizio ha? Cioè, da un lato si dice attenzione, sono stati così forti gli incentivi e così alte le richieste che abbiamo pagato una cifra di 2 miliardi e 4 in 2 anni e bisognerà ridurre questi incentivi come per vari settori, penso anche all'auto. Dall'altro si dice sì, però non può avere un effetto retroattivo, ci sono imprese e privati che si sono indebitati con le banche, che hanno chiesto fondi e finanziamenti. Lei, insomma, come presidente del primo gruppo di energia derivata da fonti alternative, che giudizio dà? Ma io credo che vada nella giusta direzione, perché credo che ci sia la necessità di dare più certezza, più stabilità e anche di rendere questi incentivi sostenibili nel futuro. Quindi è evidente che dare incentivi a pioggia può essere molto pericoloso sulla sostenibilità futura. In secondo luogo, credo che sia giusto e opportuno privilegiare un minimo di selezione che consenta di far emergere operatori industriali, imprenditori quindi di carattere industriali. Questo credo che sia anche a beneficio poi dell'occupazione, della ricaduta industriale sul paese. Quindi le do un giudizio, diciamo, in linea generale positivo, perché va nella giusta direzione, e quindi ovviamente seguiamo con grande attenzione poi gli ulteriori affinamenti e evoluzioni. Grazie, complimenti per i risultati, perché ripeto, un dividendo a 2,72 centesimi di euro per azione, l'utile in aumento dell'8%, il titolo ai massimi oggi, sono un giudizio abbastanza unanime da parte del mercato. Grazie al presidente di Enel Green Power, Luigi Ferraris. Grazie a voi, buonasera. Andrea Fontana, il mercato scontava questi dati, evidentemente il secondo miglior titolo oggi, più 3% Enel Green Power. Quanto abbiamo? 2 minuti? Allora, nei prossimi 2 minuti invece mi devi anticipare il tema delle 18.07 e quindi fondi Aria Sai. Il CDA di Gruppama, ma il titolo Fondiere Assai guadagna il 6,47%, Milano Assicurazioni, sempre nella galassia dei Gresti, guadagna il 9,51%, addirittura il 7% sulle risparmio non convertibili. Poi c'è sempre Meridiana, che è il miglior titolo perché si scommette che verrà comprata, più 15%. Qual è il ragionamento che si fa su Fondiere Assai? Beh, a giudicare da come si sono mossi i titoli, è chiaro che il mercato scommette che Groupama non si tiri indietro, ma anzi entri in forza sul mercato italiano. Probabilmente però dal movimento Milano Assicurazione, tu l'anticipavi, ha guadagnato il 9,5%, è stato il migliore di tutta Piazza Affari, a parte Meridiana Fly a cui accennavi. Su Milano Assicurazioni, ripeto, c'è una speculazione ulteriore. Il piano B di Groupama potrebbe comprendere un acquisto di Milano Assicurazioni e non un ingresso magari in Premafin o in Fondiare Assai, quindi diciamo aggirando l'obbligo di OPA sulle due società principali della famiglia Ligresti e puntando invece all'ingresso sul mercato assicurativo italiano attraverso diciamo la società più piccola delle tre, insomma. Adesso però parliamo di Fondiare Assai. Torniamo a parlarne non solo perché il caso di borsa di oggi si chiama proprio Fondiere Assai, e cioè il 9,51% di rialzo di Milano Assicurazioni, che è del gruppo appunto Ligresti, il 6,47% di Fondiere Assai, e tra l'altro su questo devo dire che vanno molto bene anche le risparmio non convertibili, ma perché soprattutto siamo ancora in attesa di sapere che cosa arriverà dal consiglio di amministrazione di Groupama. La vicenda può così essere riassunta: il gruppo Ligresti, quindi Premafin, ha bisogno di liquidità, ha bisogno che entri un socio di capitali, e si arriva a un'offerta del colosso francese Groupama, che dice di voler entrare in Premafin, che è la società che controlla poi Fondiere Assai e Milano Assicurazioni, con un 17%. La Consum però lo scorso 4 marzo interviene e dice: no, attenzione, se Groupama vuole entrare con il 17%, in realtà c'è un accordo, c'è un concerto con la famiglia Ligresti, questo vuol dire che di fatto sono gli azionisti di controllo e bisogna lanciare, Groupama dovrà lanciare un'offerta pubblica di acquisto su tutto la galassia, quindi su Fondiere Assai, su Premafin e anche su Milano Assicurazioni. Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore, buonasera. Salve, buonasera. Nessuna notizia da Groupama? Intanto diamo subito. No, non c'è ancora nessuna notizia, però si prevede largamente che la riunione si concluderà con una dichiarazione abbastanza generica in cui si dà mandato sostanzialmente al direttore generale Jean Azéma di proseguire i contatti con la famiglia Ligresti per vedere di ristrutturare il loro patto di sindacato, e quindi il tentativo è quello di riprendere l'operazione, sia pure su basi diverse, per tener conto delle obiezioni di Consob. Ciò che a cui il mercato per la verità non dà credito, il mercato si muove su un'ipotesi del tutto diversa, di uno spezzatino di Fondiare Assai, e questo spiega lo strappo di Milano Assicurazioni, cioè che questa compagnia verrebbe venduta e sacrificata per trovare quei capitali di cui il gruppo e la famiglia Ligresti hanno bisogno, oppure al contrario di un'OPA direttamente su Fondiare Assai, e che spiega anche in questo caso l'aumento vistoso di quei prezzi. Quindi da un lato abbiamo delle aspettative delle aspettative razionali, diciamo così, che parlano di una ripresa dei contatti di colloqui tra Groupama e Ligresti per vedere di superare le obiezioni di Consob e di portare al traguardo quell'operazione già decisa nelle scorse settimane. Dall'altra parte c'è il mercato che invece scommette su altre ipotesi. Vedremo sì, nei prossimi giorni chi ha ragione. Quello che mi sembra però condiviso da ambedue, cioè da un mercato che scommette su un Groupama che andrà a comprarsi la parte bassa, cioè Milano Assicurazioni e Fondiere Assai, e invece attese di un comunicato generico, quindi di prendere tempo da parte dei francesi, mi sembra che tutti però diano per scontato, Riccardo, che si manterrà l'interesse di Groupama per Fondiere Assai. Sì, si manterrà, ma attenzione, soltanto se potrà ristrutturare il patto di sindacato e entrare nel modo soft che aveva previsto. Groupama non ha alcuna intenzione di fare un'OPA, ha detto con chiarezza che qualora sia costretta a fare un'OPA si ritira in buon ordine dall'operazione. La Consob gli ha detto, così come ci hai presentato il tuo quesito, così come hai formulato questa operazione con Premafin, devi fare un'OPA. Attenzione, devi fare un'OPA soltanto su Premafin e su Fondiaria Sai, non sulla Milano. Non su Milano, hai ragione. No. Però se invece non riesce a ristrutturare questa operazione, quindi il no della Consob verrà mantenuto, in questo caso Groupama lascerà il campo a chissà quale altro interlocutore della famiglia di Gresti. Sì, fermo restando che poi comunque la famiglia di Gresti ha bisogno di questi capitali, non è che... Ne ha bisogno perché deve ricapitalizzare, perché ha un margine di solvibilità praticamente arrivato in prossimità di 100 per Fondiaria Sai e addirittura inferiore per la controllata Premafin. Quindi deve ricostituire questo margine di solvibilità, che diciamolo è quel cuscinetto di patrimonio necessario a garantire il business nei confronti degli imprevisti che possono accadere. Il mercato delle assicurazioni è un mercato da questo punto di vista protetto, come quello bancario, in virtù proprio dell'importanza anche sociale che le assicurazioni hanno. Quindi questo tallone di liquidità si è consumato per via di tante cose e soprattutto del disastroso biennio dell'RC Auto, mercato in cui Fondiaria Sai è la compagnia leader in Italia. Quindi deve ricostituire questo cuscinetto di patrimonio e è alla ricerca di qualcuno che la sostenga in questo progetto, visto che la famiglia di Gresti non ha la disponibilità finanziaria per provvedere a quella che dopo tutto è ancora una sua controllata. E quindi da qui si spiega l'interesse per Groupama e l'interesse di Groupama di arrivare in Italia, visto che appunto Fondiaria Sai è pur sempre appunto il terzo gruppo assicurativo del paese, però ancora nessuna notizia. Le tue fonti mi sembra che siano abbastanza concordi nel dire che Groupama uscirà con un comunicato neutro, di attesa, e così per prendere. Sì, ha anticipato già, semmai ieri incontrando la famiglia di Gresti, ha già sostanzialmente anticipato quello che presumibilmente il consiglio di amministrazione oggi dirà. Certo, è pure possibile che il consiglio di amministrazione prenda una posizione diversa dal suo amministratore delegato, dal suo direttore generale, ma sembrerebbe una cosa ben strana. Staremo a vedere in attesa del comunicato. Grazie a Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore. Buona serata, arrivederci. Adesso c'è il traffico e poi parleremo delle quote rosa che sono passate, la proposta sulle quote di genere, non più quote rosa, è passata, quindi va al voto finale alla Camera. Alcuni ci scrivono: ma perché non ricordate che la benzina costa come nel 2008, ma anche se allora il petrolio era più caro? Io non lo so, lo ricordiamo dalla settimana scorsa, abbiamo beccato anche insulti di ogni genere su questo. Comunque il calcolo è molto semplice: il petrolio quando la benzina toccò un livello identico ad adesso, il petrolio costava $147 il barile, eravamo nell'estate del 2008 e l'euro, il rapporto di cambio era 1,58, l'equivalente in euro erano 93 euro, adesso prendendo un petrolio a $116 al barile, con un cambio 1,39, si arriva a 82 euro come costo del petrolio, ballano per così dire 11 euro di differenza, mentre il prezzo della benzina è assolutamente uguale. Ultimo tema di questa puntata, le quote rosa, le quote di genere, perché continuiamo a parlarne? Perché è una legge destinata a cambiare quella che chi ha studiato chiama la governance delle società, ossia come è composto in questo caso il consiglio di amministrazione delle società quotate, ma anche delle municipalizzate. Spesso si dimentica questo elemento, cioè le società partecipate dagli enti locali. L'abbiamo seguito intervistando donne rappresentanti ed esponenti del mondo delle professioni, e mi riferisco ai commercialisti, intervistando Lella Golfo, che oltre che essere presidente della Fondazione Belisario è una delle due firmatarie di una legge che è completamente bipartisan, perché è firmata da Lella Golfo, che è del PDL, e da Alessia Mosca, che è del PD. E l'abbiamo fatto sentendo anche chi era contrario, sentendo i rappresentanti delle donne manager nel settore dei servizi. Oggi è la volta di chi rappresenta le donne manager, ma nel settore dell'industria. Intanto la notizia, oggi si è sbloccato in Commissione Finanze al Senato quell'impasse che si era creata ieri quando il governo si è detto contrario all'entrata a regime dal 2015 delle quote di genere, quote rosa, previste dall'emendamento Germontani. Quindi via libera della Commissione Finanze al Senato. A questo punto il 15 marzo il disegno di legge andrà in aula per il voto finale. La proposta di mediazione prevede un'applicazione in due rinnovi dei mandati triennali degli organi di gestione e controllo, cioè del Consiglio di amministrazione, praticamente un quinto dal 2012 e un terzo, cioè un quinto di quota rosa dal 2012 e un terzo, per arrivare poi a un terzo di quota rosa entro il 2015. E entrerà in vigore dopo 12 mesi dall'approvazione della legge. Anche questa è una trattativa, inizialmente era 6 mesi, invece adesso viene dato un anno. Il governo voleva essere più morbido, 3 rinnovi, non 2, invece è passato questa versione. Quindi i consigli di amministrazione dovranno entro il 2012 avere un quinto di donne attorno al tavolo e poi entro il 2015 un terzo. Dottoressa Elena Vecchio, presidente di Federmanager Minerva, che è la parte che rappresenta le donne di Federmanager Italia, organizzazione che raggruppa 180.000 dirigenti del settore industriale. Buonasera. Buonasera. Allora, soddisfatta? Almeno questa volta sì. Abbastanza. No, abbastanza. Perché? Sì, sì, sì. Perché abbastanza? Noi abbiamo, no. Abbiamo tirato, ci hanno fatto tirare un po' così, e ci hanno fatto pazientare un po', ma noi donne siamo abituate a pazientare. Mm. E siamo soddisfatte e aspettiamo adesso appunto i termini definitivi. E noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio questo disegno di legge insieme alle altre associazioni che raggruppano le donne che già occupano dei posti di responsabilità. Noi siamo soddisfatte perché riteniamo che questo significhi non solo una civilizzazione del nostro paese, ma che finalmente possa passare anche un principio, che è quello che anche come associazione nazionale noi portiamo avanti sempre, che è quello della meritocrazia, che serve tantissimo sia nelle imprese private, ma soprattutto direi anche nelle municipalizzate, nelle partecipate pubblica amministrazione. Ecco, esatto. Lei sa che proprio sulla meritocrazia sono arrivate le critiche più forti a questa legge, di cui io per dovere, diciamo, di conduzione mi faccio portatore. Corretto. Che faccio Corretto. L'avvocato del diavolo. La critica è questa: questa è una legge tutto tranne che meritocratica, perché impone delle quote. Tra l'altro oggi il ministro Sacconi ha detto ha parlato di utile forzatura se sarà straordinaria. No a un mercato protetto come polli in batteria, parla di utile forzatura. Benissimo. Mentre Lella Golfo, che è appunto una delle due firmatarie e esponente del PDL, presidente della Fondazione Belisario, dice: grande vittoria per le donne e per il paese. La Prestigiacomo, il ministro Prestigiacomo poco fa ha detto: aspettiamo adesso il voto in aula. È comunque un dato assolutamente positivo quello che è successo oggi in commissione. Tra l'altro faccio notare, ha detto la Prestigiacomo, che non bisogna aspettare i termini della legge per nominare donne nei consigli di amministrazione, possono direi farlo anche da domani senza aspettare la legge. Allora, utile forzatura non meritocratica? Allora, utile forzatura perché noi abbiamo sempre sostenuto questa legge come legge transitoria, proprio per avviare il processo. Riteniamo che sia che porti avanti la meritocrazia, in quanto sappiamo già che esistono curricula di donne che sono assolutamente compatibili con posti in consiglio di amministrazione, e sappiamo che molto spesso vengono preferiti a pari merito gli uomini per abitudine, per consuetudine, per tradizione o per cultura, diciamo, perché comunque sappiamo che comunque in Italia il potere è sempre stato gestito dagli uomini. Rispondo a questa provocazione. Allora, voi avete ragione dal punto di vista dei dati, perché solo il 2,6% delle donne siedono nei consigli di amministrazione in Italia. Perfetto. Che è meno della metà della media europea, un terzo della Francia, della Germania, è il solito discorso. Però, se domani io proponessi una legge per avere una quota giovani dentro il CDA, cioè che sotto il 30% riservato a chi ha meno di 50 anni, con l'obiettivo di svecchiare il paese, se no qui sono sempre, c'è la gerontocrazia. Sarei assolutamente d'accordo. Ma andiamo avanti a botta di quote? No, non andiamo avanti a botta di quote, ma in Italia evidentemente purtroppo dobbiamo agire così, perché alcuni cambiamenti non avvengono spontaneamente, mentre gli altri paesi all'estero ci superano. Questo è anche legato proprio a tutta la nostra situazione attuale. Però è un po' triste generale. Un paese in cui deve andare avanti a botte di quote sulle quote rosa, sulle quote giovani, no? Cioè, non dovrebbe esserci una spinta naturale? È tristissimo, io sono rammaricata al massimo di dover essere soddisfatta perché c'è una legge che impone un numero di donne nei consigli di amministrazione. A titolo personale sono veramente rattristata da questo, perché si immagina che certi processi dovrebbero essere spontanei, non dovrebbero essere forzati. Vabbè, ma tanto guardi, il 15 poi torneremo a parlarne, perché diventerà legge se non ci sono nuove sorprese. Sì. Non vorrei poi arrivare, vorrei capire anche dove ci fermiamo con questo tema delle quote, perché la quota rosa va bene, la quota giovane va bene, poi la quota giovane del nord. Oggi la Lega è stata battuta sulle quote degli alpini reclutati nelle valli alpine, cioè, un paese che va avanti per quote è meglio che si faccia anche qualche domanda e, come dice Marzullo, si dia anche qualche risposta. Comunque grazie intanto e complimenti per quello che avete incassato come donne, come manager, come italiane, come tutto. Grazie a lei, spero che il paese ne abbia godere di questo, perché i dati dicono metà questo. Del paese ne godrà sicuramente, io spero anche l'altra metà. Grazie. Io mi auguro anche l'altra metà, noi stiamo lavorando per questo, non solo per noi donne, ma per tutto il paese e per lo sviluppo del paese. Grazie alla presidente di Federmanager Minerva, Elena Vecchio, da Sebastiano Barisoni, veramente tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 16 in poi. Radio 24. La passione si sente.